resti zitta in fiamme, ceneri e sangue per le strade, polvere, prima che sia già tardi, chiediti, avrei potuto pormi, o mi sta bene così? Se si c'era un'altra